È evidente che il MES è pensato come uno strumento in cui i prestiti vengono dati in cambio di condizionalità. In questo caso le condizionalità sono sicuramente molto più basse di quelle che c'erano per la Grecia, ma non scompaiono. E soprattutto, questo è l'altro punto su cui riflettere, il MES, ma come il MES altri strumenti che invece vengono accettati dai 5 Stelle e da tutti gli altri, sono basati sul fatto che uno prende adesso dei soldi e li restituisce. E questo, come è facile da capire, non è la soluzione dei problemi, perché noi avremo una botta enorme con un prodotto interno lordo che scenderà di circa 200 miliardi nel 2020. Mancano già adesso dei soldi, ma non è che l'anno prossimo torniamo a regime, l'anno prossimo recupereremo un pezzettino. Allora, se poi bisogna cominciare a restituire dei soldi, il meccanismo è un meccanismo che non funziona, e per questo non va il MES, ma come non vanno il SIUR e altri istituti che invece tutti glorificano. Ed è per questo che noi abbiamo detto la via maestra per contrastare la crisi non è quella fondata sui prestiti, ma è quella dell'intervento diretto della Banca Centrale Europea, che potrebbe intervenire senza aver bisogno di vedere restituiti i soldi. Proprio su questo c'è una petizione appunto della sinistra europea che si intitola "Usiamo il denaro della BCE per la salute e non per la finanza". Sì, abbiamo fatto una petizione su cui stiamo raccogliendo le firme nei diversi paesi. Il ragionamento è molto semplice: tutte le banche centrali del mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, alla Cina, all'Inghilterra in avanti, finanziano direttamente in un modo o nell'altro le misure del governo centrale. Il tutto funziona sull'idea che questa spesa che lo Stato è in grado di fare produce poi uno sviluppo economico che permette complessivamente non di produrre inflazione, ma di produrre sviluppo, cioè in qualche modo si anticipano dei soldi che permettono di mettere in movimento risorse, forza lavoro, lavoratori e risorse materiali che altrimenti rimarrebbero inutilizzate. Questa è la logica dell'intervento delle banche centrali direttamente. In Europa questo nei fatti non avviene. La BCE ha finanziato le banche private, questo è avvenuto nel 2008, nel 2013, cioè le banche le hanno salvate in questo modo, ma invece non vogliono farlo sull'economia, sulla società. Noi proponiamo una cosa molto semplice, e paradossalmente è possibile farlo rispettando i trattati, diciamo piegandoli in una logica popolare, anche se sono stati fatti per un altro motivo. Noi diciamo la Banca Centrale Europea, diciamo, compri dei titoli da una banca europea pubblica che chiamiamo Fondo Sanitario Europeo, e questo Fondo Sanitario Europeo emetta dei titoli, li compra la BCE, quindi la BCE la finanzia, titoli a 100 anni a tassi di interesse negativi, in modo che non debbano essere restituiti, e in questo modo questo Fondo Sanitario Europeo potrebbe fare tutte le spese che vanno fatte per potenziare e per costruire effettivamente un sistema di welfare europeo, senza che questo debba poi essere restituito dai singoli paesi e senza che questo vada ad essere conteggiato come debito nei bilanci dei singoli paesi. Perché un'altra cosa che non funziona del MES è che noi prendiamo questi soldi a prestito, li restituiremo, ma nel frattempo tutto cosa spendiamo di quei soldi vanno conteggiati come debito. Sarà debito che su cui noi dovremo rientrare, perché i parametri europei prevedono che il debito debba essere al massimo il 60% del PIL, mentre noi quest'anno finiremo al 150%. Vi ricordate Monti quando in nome del rientro del debito ha piantato giù le massacrate sulle pensioni avanti? Ecco, usando il MES stiamo ponendo le condizioni per ripresentarci in una condizione come quella di Monti. Invece, se fosse la BCE, non gonfierebbe il debito, non sarebbero soldi da restituire e sarebbe semplicemente la ricchezza complessiva dell'Europa, la forza economica, se volete, dell'Europa, che è in grado di produrre una moneta come l'euro, che tutti accettano come valuta di pagamento, in qualche modo come il dollaro. La forza economica dell'Europa permetterebbe di fare quella spesa senza che nessuno la debba ripagare, perché verrebbe ripagata dallo sviluppo economico che produrrebbe. Noi abbiamo avuto nella nostra storia una cosa che si è chiamato miracolo economico, chiamiamo miracolo, negli anni 50 e 60 a cavallo. Questo è avvenuto non per la spesa privata, ma per l'enorme spesa pubblica che c'è stata, che si è ripagata con politiche keynesiane. Oggi bisogna fare una cosa simile.